words, my friend. Now there's revolution, but they don't know what they're fighting. Let us close our eyes outside the lines, go on much faster. Oh, be born again, we'll be blessed in the past. Allora, già totale con Living in the Past, 13:35, ancora 20 minuti circa da trascorrere insieme. Alle 14 ovviamente arriverà con voi Max De Riu. Saluto Marco, grazie mille per il tuo messaggio, molto bello. Mario 69 dice: vi ho scoperto ai tempi del Gaucho Show e siete stati la mia radio, mi avete fatto scoprire un mondo fantastico, grazie. Poi saluto Manuel, dice: guarda Claudia, sono sempre stato un adoratore di Taria, ma il suo album non si può ascoltare neanche paragonabile a Dark Passion Play. A me piace parecchio l'album di Taria, ci sono delle canzoni molto belle. Certo che se pensi a quello che ha fatto con i Nightwish c'è un abisso, giustamente, anche perché comunque i Nightwish erano una band metal, chiamiamola sì, così, metal, e giustamente Taria dava questo suo tocco particolare con la sua bellissima voce. Adesso sta cercando di fare bene o male altro, quindi ci sono delle canzoni come il singolo, come altre che hanno magari delle sonorità pesanti, no, perché non vogliamo assolutamente esagerare, però ci sono anche delle canzoni secondo me molto belle che sembrano quasi la colonna sonora di un film. Infatti lei diceva che ha in progetto anche di collaborare proprio con della musica per dei film, le hanno già proposto qualcosa in Finlandia e quindi adesso vuole esplorare anche quel mondo. Però secondo me l'album non è assolutamente male. Io non sono mai stata una grandissima fan dei Nightwish, non provavo simpatia per Tarja Turunen dopo tutto quello che avevo letto, invece abbiamo scoperto un grande personaggio, molto simpatica tra l'altro, una bellissima voce, e ti dico ancora una volta che l'album a me non dispiace. Saluto Brucia da Campi: ma perché prima della vlog non facciamo una cena tutti insieme al circolo lì? Sapete, sarebbe un buon inizio per tutti noi. Ma questa non è assolutamente male come idea, certo che bisogna organizzarsi. Io quasi quasi, cosa farei? Cosa potrei proporre in questo momento? Ma visto che bene o male è il DJ Ariele che coordina, che fa, che organizza, che disfa, potremmo rivolgerci direttamente a lui. Non è male come idea, anzi, molto bella. Ora vi lascio con la cover di Boys of Summer, loro sono gli Ataris. I can't see. hanno da poco annunciato anche le date estive. I ragazzi saranno in giro ovviamente, il tempo permettendo, perché no vabbè, ma giugno, luglio, sicuramente ci sarà, sarà tutto bello. 1977, riascoltati con Il Mostro. Allora saluto il nostro Furio, che non è Mox, ma noi abbiamo un altro Furio che sta a Genova, e gli mando un bacione grande grande. Saluto Lillo, ieri ero virtuale, però parlavo del decoupage, ho scoperto questa cosa fantastica, cosa che conoscevo già in realtà da diversi anni, però non pensavo di essere brava. Quindi cassetta della frutta, colla, pennello, riviste sportive, quindi mi sono così ritagliata diverse foto di diversi snowboarder, surfisti, skaters e compagnia bella, mi sono fatta queste cassette della frutta bellissime, ricoperte con appunto tutte queste foto, un'arte meravigliosa, foto messe insieme comunque con un senso, cose che capisco solo io, ma non importa, e arte povera ma assolutamente minima spesa, massima resa, mettiamola così. Infatti Lillo dice sì sì, le cassette della frutta, e ho sentito dire che la radio chiude perché non riescono più a pagarti lo stipendio. Eh sì, in effetti, ecco, è colpa mia, è colpa mia se chiude la radio. No no, però viva il decoupage tutta la vita. Saluto anche Andre, dice più che santi di Los Angeles io i Motley li farei santi subito. Sì. Luigi da Genova dice: vi ho appena conosciuto e presto vi perderò, sono con voi perché le vostre voci vanno sempre dritte al cuore, mamma mia. Saluto anche Cosi e dice: spero di non saltare troppo il 31, il 1 giugno alla FLOG, mi raccomando, il 1 giugno siamo alla FLOG, il 31 siamo, il 30 al 31 siamo in radio, visto che ci sarà questa mega diretta che inizierà il 30 alle ore 18 e si concluderà, ahimè, il 31 maggio alle 18. Vi invitiamo, noi siamo in via Locatelli numero 1, 20124, facciamo sentire la nostra voce, facciamo vedere che il danno che qualcuno sta facendo è veramente enorme. Intanto i Clutch, questa è Electric Worry. Well, you made me weep, and you made me moan. When you caused me to leave, child, my happy home. But someday, baby, you someday, baby, you ain't worry my life anymore. anche quest'oggi con noi Whitesnake con All I Want, All I Need, il loro nuovissimo singolo, alle 13.56. Io vi saluto, ci sentiamo domani, ovviamente da mezzogiorno alle 14. Domani, giuro, sarò puntuale, arriverò in radio alle 8, così almeno sono sicura di iniziare a mezzogiorno. Vi lascio con l'ultima canzone del mio spazio, tra pochissimo con voi ci sarà Max Rio. Vi lascio con i Seven Dust e la loro Prodigal Son e noi ci sentiamo domani. Vi auguro una fantastica giornata e tra poco con voi il buon Max. Passion.